Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Per molti secoli, l'uomo ha cercato, attraverso riti e magie, di trovare delle risposte sulle realtà nascoste dell'esistenza. Fino a quando, 350 anni fa, Newton scoprì un codice cosmico destinato ad aprire le porte della conoscenza. Durante tutta la storia, i più importanti pensatori sono sempre stati convinti che il mondo di tutti i giorni che osserviamo mediante i sensi rappresenti soltanto la manifestazione superficiale di una realtà nascosta più profonda, dove si dovrebbero cercare le risposte ai grandi interrogativi dell'esistenza. Questa convinzione è stata così forte che intere società ne sono state plasmate. I cercatori di verità hanno praticato complessi cerimoniali e riti. Si sono serviti di droghe e meditazione per raggiungere stati analoghi alla trance e hanno consultato sciamani, mistici e sacerdoti nel tentativo di sollevare il velo che copre un mondo oscuro sottostante a quello che percepiamo. La parola occulto in origine significava conoscenza di verità nascoste e la ricerca di una via d'accesso al dominio occulto è stata una grande preoccupazione di tutte le culture, dall'alchera o tempo del sogno degli aborigeni australiani, al mito di Adamo ed Eva, che assaggiano il frutto proibito dell'albero della conoscenza. L'avvento dell'argomentazione razionale e della logica non dissipò affatto l'idea seducente di una realtà nascosta. Platone paragonò il mondo delle apparenze a un teatro delle ombre proiettato sulla parete di una caverna. I seguaci di Pitagora erano convinti che i numeri possedessero un significato esoterico. Anche la Bibbia è zeppa di numerologia. Valgano come esempi le frequenti apparizioni del 7 e del 40 o l'associazione del numero 666 con Satana. Il potere dei numeri condusse alla credenza che certi interi, certe forme geometriche e certe formule fossero capaci di evocare il contatto con un piano soprannaturale e che oscuri codici, noti solo agli iniziati, potessero rivelare segreti cosmici capitali. Residui dell'antica numerologia sopravvivono anche oggi. Alcune persone superstiziose credono ancora che numeri come 8 e 13 siano fortunati o sfortunati. Tentativi di ottenere informazioni utili sul mondo, mediante magia, esoterismo e codici matematici segreti, in generale non portarono a nulla. Ma circa 350 anni fa, il massimo mago che mai sia vissuto, Isaac Newton, scoprì finalmente la chiave dell'universo. Un codice cosmico destinato a dischiudere le porte della conoscenza. Newton fu mistico, teologo e alchimista, ma nonostante le sue propensioni esoteriche, fece più di chiunque altro per trasformare l'età della magia nell'età della scienza. Insieme a un piccolo numero di altri luminari, tra i quali Niccolò Copernico, Giovanni Keplero e Galileo Galilei, diede vita alla moderna era scientifica. La parola scienza deriva dal latino scientia, che significava semplicemente conoscenza. In origine era soltanto uno dei tanti metodi arcani usati per spingere l'indagine oltre le limitazioni dei nostri sensi, nella speranza di avere accesso a una realtà invisibile. La particolare specie di magia impiegata dai primi scienziati faceva ricorso a procedimenti insoliti e specializzati, come la manipolazione di simboli matematici su pezzi di carta e lo sforzo di indurre la materia a comportarsi in modi inconsueti. Oggi diamo per scontate queste pratiche e le chiamiamo rispettivamente teoria scientifica ed esperimento. Il metodo di indagine scientifico non è più considerato come un ramo della magia, come l'oscuro passatempo di una casta sacerdotale chiusa e privilegiata. Ma la familiarità genera scarsa considerazione e al giorno d'oggi l'importanza del procedimento scientifico viene spesso sottovalutata. In particolare le persone sembrano ben poco sorprese del fatto che la scienza effettivamente funzioni e che noi siamo realmente in possesso della chiave dell'universo. Gli antichi avevano ragione. Sotto la complessità che la natura mostra in superficie c'è un testo nascosto, scritto in un elusivo codice matematico. Questo codice cosmico contiene le leggi segrete secondo le quali funziona l'universo. Newton, Galileo e gli altri scienziati delle origini trattavano le loro indagini come una ricerca di carattere religioso. Svelando le strutture intessute nei processi naturali, essi pensavano di intravedere davvero la mente di Dio. Gli scienziati moderni in generale non sono religiosi, eppure ammettono ancora che alla base dei processi naturali vi sia un copione intelligibile, perché credere altrimenti significherebbe minare alla radice la motivazione stessa del fare ricerca, che è quella di scoprire qualcosa di significativo sul mondo che non sappiamo già. Trovare la chiave dell'universo non era affatto inevitabile. Tanto per cominciare, non c'è nessuna ragione logica per cui la natura debba avere un testo sotto traccia di carattere matematico. E anche se ce l'ha, non c'è nessun motivo ovvio per cui gli esseri umani debbano essere in grado di comprenderlo. Osservando il mondo fisico, non si indovinerebbe mai che sotto la tumultuosa superficie dei fenomeni naturali vi sia un ordine astratto, un ordine che non può essere visto, udito o avvertito al tatto, ma solo dedotto. Neppure la mente più acuta potrebbe stabilire, in base alla sola esperienza quotidiana, che i diversi sistemi fisici che formano il cosmo sono connessi in profondità da una rete di relazioni matematiche codificate. E tuttavia la scienza ha rivelato l'esistenza di questo mondo matematico nascosto. Noi esseri umani siamo venuti a conoscenza delle più riposte attività dell'universo. Altri animali osservano i medesimi fenomeni naturali che vediamo noi, ma tra le creature presenti su questo pianeta solo Homo sapiens è in grado di spiegarli. Com'è stato possibile? Beh, in qualche modo l'universo ha prodotto non solo la consapevolezza di sé, ma anche la comprensione di sé. Atomi privi di coscienza, muovendosi alla cieca, hanno concorso a dare origine non solo alla vita, non solo all'intelligenza, ma alla capacità di comprendere. Il cosmo, nella sua evoluzione, ha generato esseri che sono capaci non solo di guardare lo spettacolo, ma anche di venire a capo della sua trama. Cos'è che permette a qualcosa di così piccolo, delicato e adatto alla vita terrestre come il cervello umano di entrare in rapporto con la totalità del cosmo e con la silenziosa melodia matematica sulle cui note esso danza? Per quanto ne sappiamo, questa è la prima e l'unica volta che in un qualsiasi luogo dell'universo le menti hanno intravisto il codice cosmico. Se l'umanità si estinguesse in un batter d'occhio cosmico, ciò potrebbe non accadere mai più. L'universo potrebbe durare trilioni di anni, avvolto nel mistero totale, salvo che per un fugace attimo di illuminazione su un piccolo pianeta in orbita, intorno a una stella media in una galassia ordinaria, 13,7 miliardi di anni dopo il suo inizio. Avete ascoltato la lettura di un passaggio del libro di Paul Davis, Una fortuna cosmica, la vita nell'universo, coincidenza o progetto divino. Mondadori, 367 pagine, 19 euro.